Thank you. E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, riparte come descritto e previsto prima del GR di Radio Popolare Network. Ricordiamo che siamo finalmente arrivati nella nuova sede di via Porta Galliera di Bologna, 451, dunque si trasferisce per la prima volta, bisogna dirlo, in un'altra sede dopo più di dieci anni nella vecchia sede di via Berretta Rossa. Non che la zona fosse particolarmente brillante o bella, perché non so se qualcuno c'è mai andato in quella zona, era abbastanza terminale come luogo. Tutto, era terrificante come clima, come suoni, come ambiente, veramente brutta. Qua devo dire una bella sede, molto grande, dobbiamo ancora un po' abituarci, come un bimbo quando si trova in una grande sala, no? Un po' disorientato. Sei, non siamo un po' smarrito, siamo anche tu, no? È un po' sì, dai, è umano, insomma, è umano, ma noi siamo oltre l'umano. Ma noi siamo oltre l'umano, soprattutto in questi tempi che sono oltre ogni ipotesi possibile, siamo veramente oltre. Comunque siamo rientrati, 451 frammenti sonori. Velocissimamente vi voglio dire due cose, vi vogliamo anzi dire due cose tramite la mia voce. Prima di tutto che Aidan Baker, che ha chiuso la prima parte della puntata, era tratto il disco, lo ricordiamo ancora, Liminoid Life Forms del 2010, un brano tratto da un album molto ambientale, anche se Aidan Baker è un personaggio molto eclettico, perché il personaggio canadese si muove su atmosfere veramente differenti, sforna 2-3 dischi all'anno, si muove tra jazz, no jazz, ambient, rumorismo, addirittura delle cose post rock abbastanza opinabili, insomma sperimenta molto, è molto aperto. Ricordiamo che aveva fondato all'inizio della sua carriera, circa 13-14 anni fa, un gruppo che si chiamava Ark, ed era un trio chitarristico ambientale che lavorava su distorsioni e suoni ambientali di flusso, e poi ha portato avanti la sua carriera solista fino ad arrivare a degli ultimi album, tra cui questo che abbiamo mandato alla fine della prima parte, Life Forms Liminoid 2010. La seconda cosa che devo dire, velocissimo, poi lascio la parola a Max, è la cosa legata ovviamente al nostro blog, perché non l'abbiamo più detto da un mese e mezzo. Chiunque voglia adesso ritornare a riascoltare le ultime trasmissioni, l'ultima trasmissione, quella di stasera, che, se per coloro che fossero collegati soltanto adesso, è intitolata No Ambient, può andare sempre sul nostro blog, 451frammentisonori.noblogs.org, e lì potrete trovare notizie, informazioni e soprattutto i podcast da poter ascoltare o scaricare della trasmissione. E tra l'altro ricordiamo oggi proprio 11 marzo, data storica per Bologna, per chi ha una certa sensibilità non soltanto storica, però perlomeno, insomma, sperando che ci sia perlomeno quella, visto che 11 marzo del 1977, insomma, è una giornata piuttosto particolare per Bologna. Rimandiamo a Radio Invenzioni, appunto sul blog, tratta proprio di quel periodo e dell'assassinio, tra l'altro, dello studente di medicina, nonché militante extraparlamentare di Lotta Continua, a cui dovrebbe essere dedicata quella via, quantomeno. E ancora no. E ancora no, vabbè, ma comunque queste sono faccende anche istituzionali, viene ricordato in altre maniere, soprattutto con le lotte. Forse meglio, stavo pensando, infatti, perché se diventa una cosa istituzionale rischia di perdere quell'aspetto antagonista che era propria del movimento e anche di Lo Russo, dunque va bene, sì. Così ce lo ricordiamo noi e lo ricordiamo dentro le lotte, infatti, meglio così. Noi abbiamo voluto comunque ricordarlo perché oggi proprio cade l'11 marzo, c'è stata sicuramente la solita iniziativa a Porta Mascherelle in ricordo di Francesco Lo Russo, ed è giusto ricordarlo finta istituzionale, dici? no ce n'era anche una di movimento, degli amici, dei compagni, no, quella istituzionale fa schifo proprio, cioè, sono le ipocrisie delle istituzioni. Di Bologna. Abbiamo ascoltato Natural Door Building, cambiando discorso, ma mica tanto, visto che poi mettiamo musiche che comunque perlomeno vogliono creare situazioni nuove. come suoni, come attitudini, quindi anche come realtà, perché no, sono musiche che vogliono, tanti di questi artisti vogliono trasformare la realtà e di fatto cercano di plasmarla appunto attraverso altre sonorità. Natural Snow Building, stupendo combo francese, che in maniera piuttosto creativa, appunto piuttosto fantasiosa, in verità addirittura fantastica alcune volte, proprio perché dal reale del folk si passa. E beh, anch'io. E anche tu, ti ho beccato. Abbiamo lo stesso vizietto, lo sai. Solo che io mangio molto miele. Hai ragione, ti salvi. Mi salvo un po', dovresti farlo anche tu. Hai ragione. Vabbè. Ma non tergiversiamo, caro. Natural Zone Building, che appunto vengono dalla Francia e trasformano il folk in una maniera veramente fantastica, appunto partendo da una realtà storica come le musiche bretoni, magari francesi, saranno forse queste che stimoleranno le fantasie piuttosto fantastiche del combo, portandole verso forme di musiche astratte. Sentite ad esempio cosa abbiamo in sottofondo, ambient che viene come dire rimasticato dentro una formula piuttosto nuova, e poi appunto questa acustica che va a limare anche momenti appunto fin troppo metafisici, che affondano quasi dentro fantasticherie horror, come stiamo sentendo, no? E appunto da Natural Snow Building invece una questione più ambientale, sicuramente. Sì, è un personaggio assolutamente nuovo, molto giovane, si sa molto poco di lui, ha fatto uscire proprio l'unico disco che adesso andremo ad ascoltare. Musicista inglese Chris Herbert, oltretutto ci sono molti omonimi già presenti sulla scena di nome proprio Chris Herbert, e ha fatto uscire c'era appunto anche un altro Herbert. C'era anche un Herbert che conosciamo molto bene in un altro settore, ma neanche tanto distante, poi vabbè, elettronica, però un'altra roba. Sì, un'altra storia. Un'altra storia molto importante. Invece questo Chris Herbert ha fatto uscire questo disco, oltretutto già 5 anni fa, Mezzo Tint, del 2006 per la Cranky, dunque un'etichetta anche non da poco, però poi è praticamente semiscomparso. Un disco molto interessante, si muove su dei lidi ambientali piuttosto particolari e abbastanza suggestivi, anche se non sperimenta tantissimo sul piano del rumorismo, ma si muove in alcuni brani di questo disco in maniera abbastanza anomala, dei suoni che poi sfociano dall'ambient a dimensioni quasi concretiste in alcuni brani, e sembrava appunto che da questo disco potesse nascere anche un percorso. In realtà il percorso è finito, almeno come Chris Herbert. Di altro si sa ben poco, è uscito un disco successivo che è un CDR nel 2007, ma poi veramente scomparso. Altre notizie, io sono andato a cercarle per riuscire a capire, c'è solo il suo MySpace dove continua a fare delle cose, delle autoproduzioni, ma diciamo che è rimasto abbastanza nell'ombra. Ma anche per questo è interessante poter far uscire qualcuno che comunque ha fatto un buon disco, che si inserisce bene anche nel contesto di stasera No Ambient, perché è un ambient, però c'è qualcosa che lo fa uscire dalla categoria. È abbastanza difficile definirlo, soprattutto nelle parti concretiste di alcuni brani. In questo brano che abbiamo selezionato sta più dentro il discorso flusso elettronico vicino all'ambient, però scorgerete delle diramazioni che sono abbastanza particolari. Ma a questo punto andiamocelo a sentire. Mezzo Tint, il disco Chris Herbert 2006. Thank you. Beh, veramente notevole Lorenallo, e abbiamo voluto un po', come dire, tributare anche quello spazio, in tutti i sensi poi tra l'altro, che va a riprendere direttamente da certi anni 90, da certa techno ambient, ambient house molto importante. Si possono ricordare cose che provenivano dalle splendide compilazioni delle Trans Europe Express, anche Trans American Express, cose che ricordano i Mav Cazze, certe cose dei Jedi Knights, primo periodo, come Reloaded, addirittura vaghezze che possono ricordare i primi periodi della Warp, Orb, insomma un terreno musicale, se vogliamo chiamarlo terreno, forse è meglio chiamarlo spazio in tutti i sensi, che con quella battuta va a ritrovare anche appunto quell'afflatto cosmicheggiante che così fa anche un po', come dire, tenerezza rivederlo, insomma, a distanza di 20 anni, come poi tra l'altro non sia ancora il terreno di revival. Lauren Halo, giro di Brooklyn, newyorkese, simpatica autrice di musiche, simpatica anche per un aspetto estetico che sicuramente, insomma, aiuta, come dire, a presentarsi anche nei suoi live set. Prima l'abbiamo sentita appunto insieme al grande Borden, storico Modern Mallard, James Ferraro, Lopatin, in quel progetto, insomma, presentato nella prima parte, di ottime e buone promesse. Lauren Halo, sicuramente, insomma, nel suo rifacimento di atmosfere tanto anni 70, come certe faccende vagamente moroserizzate, sentivamo prima una battuta che poteva ricordare quegli anni 70, quell'idea di cosmo, quella idea poi di spazio appunto dentro appunto forse gli anni 90, con quella, insomma, vaghezza appunto spaziale, quella voglia di escapismo cosmicheggiante che un po' aleggia in tutto Our Logic, splendido lavoro del 2011 di questa giovane newyorkese che appunto si è data anche lei all'ambiente, al cosmo. Sì, oltretutto notavo che qualcuno dice addirittura ispirata da Steve Reich, chissà, mi sembra una cosa un po' particolare, sì, però viene proprio indicato. Tessiture algoritmiche, forse. Misteri della critica. Vabbè, noi adesso invece ci spostiamo e troviamo una formazione. Fai critica anche tu, caro. Certo, hai ragione. Allora, andiamo, ci spostiamo relativamente, che stiamo sempre negli Stati Uniti, dunque siamo nella zona States, con un'altra città, in questo caso Cleveland, formazione nata nel 94 a Cleveland, gli Ethernet, il nome è abbastanza inquietante, può far ricordare Ethernet, c'è stata anche la sentenza, oltretutto, che condanna dopo un sacco di anni di vicissitudini per le morti proprio di amianto. Va bene. Ha qualcosa di Ethernet il loro suono, tra l'altro, ricorda un po' le vecchie lamiere. Sì, sì, hai ragione, un pochettino sì, a questa battuta poi che sentiremo, che è collegata, poi l'abbiamo inserita vicino a quella di Lauren Halo, non a caso, una battuta che si percepisce techno, una cassa dritta molto lontana, su una base chiaramente legata a delle dimensioni droniche ambientali, un disco questo che è intitolato 144 Pulsation of Light, uscito nella fine del 2009, esattamente, poi appunto è stato prodotto anche questo dalla Cranky, dunque ci troviamo un'altra formazione prodotta dalla Cranky, formazione che già dagli anni 90 insomma in circolazione, dunque non è certamente una novità, ma che negli ultimi anni comunque ha fatto uscire dei buoni dischi, tra cui appunto l'ultimo uscito alla fine del 2009 che andremo a sentire. Rimaniamo dunque in quel settore legato comunque anche una dimensione molto vicina ovviamente a certi suoni americani, l'abbiamo un po' costruita questa seconda parte, almeno in questo blocco, molto vicina a delle sonorità statunitensi, e ci andiamo a sentire anche questo percorso, questo filamento di Ethernet, filamento. Sì, speriamo insomma che non porti insomma polveri nocive, sottili o qualcosa appunto, del genere, filamento. Va bene. Ethernet. Thank you. That's about it. abbiamo fatto veramente il flusso no ambient, costruito e voluto con la nostra responsabilità, mixando fondamentalmente Ethernet con, ricordiamo ancora, 144 plus stations of, non mi ricordo più, ma va bene, insomma, non importa. 144 pulsation, ma già bene, 144 pulsazioni. Siamo a posto, abbastanza, sono anche tanti, anche, no? E poi abbiamo mixato, oltre agli Ethernet, anche Vekalikak Family. Ecco, Vekalikak Family è il progetto che abbiamo appena ascoltato, piuttosto strano, nel senso, lo sentite ancora strambo, in sottofondo, un po' strambo, un po' deviato, delle atmosfere droniche, mixata delle registrazioni concretiste, anche delle situazioni quasi post glitch e delle sonorità che ricordano lontanamente anche una certa memoria. Abbiamo fatto la trasmissione Citazioni e Memorie, ricorda un po' quell'atmosfera, un po' la Belbury Poli, questi coretti, certe dimensioni, suoni che echi dal passato, anche folk, musiche etniche. Infatti non a caso le abbiamo messe vicino, tutto sommato, nel blocco aperto da Natural Soul Buildings, con delle cose appunto anche folk che vengono riportate. Vekalikak Family dunque sono nati, lo diciamo, nel 2003, costruiti e costituiti da un personaggio piuttosto appunto eclettico, che è anche un performance art, Peterson, John Peterson, che ha appunto costruito e ha costituito questo gruppo, che è partito da Portland, appunto, negli Stati Uniti. Dunque siamo anche qua sempre nel discorso terra statunitense, negli States, e abbiamo ascoltato il disco, il disco d'esordio del 2005, May 23 2007, perché è troppo lungo pronunciare in inglese, 2007, allora 2007, non mi ricordo, non voglio entrare, perdoniamo, se c'è qualche purista della lingua inglese può chiamare a Radice del Capo, trovate, e si arrabbia con me perché è colpa mia, realtà, sì, poi non vi risponde nessuno perché i numeri di telefono devono anche essere ancora messi a posto, però sì, in effetti non abbiamo ancora da darvi i numeri di telefono. Però se volete vi diamo l'indirizzo nostro, però. A posto. Comunque, Kalika Family, che ancora sentiamo in sottofondo, ha chiuso con questi tre brani piuttosto strani. Ecco, il primo è proprio un flusso dronico molto chiaro, il secondo c'è, cioè, questi frammenti sonori mixati, un po' di concretismo e anche certe linee che ricordavano qualche sigletta un po' demenziale degli anni 70, di qualche cartone animato, di qualche telefilm di fantascienza. La chiusura è un po' cupa, con queste campane che suonano a morte. Il brano si intitola, questo è divertente, perché il brano si intitola Bells in Bergamo. Ci dunque sono, si vede che sono passati a Bergamo questi. Secondo me hanno visto forse il clima un po' triste, non lo so. Non è brutta Bergamo. No, è però, bella, però c'è molta lega. Anche questo te lo sì, no, a parte quello che voglio dire, è cosa risaputa. Molto leghista. Non credo che si siano fissati su quello, via. Hanno sentito le campane, infatti le campane sono Bergamo Alta, no? Forse a Bergamo Alta hanno sentito le campane di una chiesa, l'hanno campionata e poi si sono così ispirati a Bergamo. A Bergamo. Tu ti vorresti ispirare a Brescia? A Brescia, Brescia è importante anche nel futuro. Sì, perché magari qualche bresciano qua ci sente. Ma ce ne sono di bresciani bergamaschi, ma li salutiamo, sono tutti compagni. Al di là di questo, anche nel disco di Chris Herbert, Mezzo Tint, c'era un brano dedicato in una città italiana. Quale? Cassino. Vedi? Cassino. È vero, l'abbiamo pure messo, tra l'altro. L'abbiamo messo il pezzo, si chiama proprio Cassino. Sei contento? Beh, abbastanza, perché ti sento in grande fumo, ormai ti sento già. Ma mi sono già ambientato. Infatti, avevo costruito già una piccola stanzetta. Sì, beh, una piccola cucetta anche per me, magari. Anche per le piccolina, un po' rettangolare, un po' stretta. Un po' cani, un po' gatti, un po' bestie. E da Nature is No Building, da Chris Herbert, da Laura Nalo, da Ethernet e Calicca Family, beh, finiamo e concludiamo, come dire, alla grande, beh, diciamo, sì, dai. Beh, con due personaggi, due progettualità che fondano, beh, la prima già da una decina d'anni e la seconda invece con cui appunto partecipa, che addirittura parte proprio dalla fine degli anni 70, ovvero Sanò, chiaramente insomma ci riferiamo alla progettualità più giovane, e Narsuitund. Narsuitund, storica formazione legata all'industrial, quello però più vicino alle avanguardie storiche, futurismo, Dada, continuamente citato, tante riferimenti a giocosità sonore che provengono appunto dai primi Novecento, e poi tutto l'interesse per la musica concreta, la musique concrète francese, microfonazioni, suoni d'ambiente, fatti entrare dentro quello che all'epoca fu considerato industrial. In realtà Steve Stapleton, che è un po' la mente di tutta la faccenda Narsuitund, ha sempre detto sì, vabbè, considerateci industriali, ma poi in realtà insomma ci consideriamo insomma un gruppo Dada, Dada futurista, anzi come amavano definirsi Narsuitund. Nel corso della più che trentennale iter sonoro folle, da momenti di brutismo sonoro a momenti drone music, quando la drone ancora era, come dire, sepolta dentro le memorie di pochi, si possono ricordare momenti cosmici già nel periodo in cui venivano considerati industriali, ad esempio con Spiral Insane. E poi nel corso dei decenni veramente hanno fatto di tutto di più, capolavori, musiche che andavano, come dire, a informare anche i nuovi adepti a chi voleva insomma riprendere in chiave creativa il mixerismo, la stereofonia, tutto quel mondo strano che hanno sempre insomma ripescato e reinventato Narsuitund. Ce l'andiamo a prendere appunto da questo ultimissimo lavoro con Sanò, un viaggio ambient con quelle quel senso sempre di malessere che c'è nella musica di Sanò, quel senso però anche così di spazio assurdo di Narsuitund, ed esce appunto questo gioiello uscito da pochissimo tempo, appunto firmato Sanò e Narsuitund. Il titolo e Iron Soul of Nothing già ve lo dice, ve la dice lunga appunto su come la pensino ancora Narsuitund e anche appunto Sanò, in questo senso sposano questa assurdità di Steve Stapleton. Aspetta, non far partire tutto, salutiamo a questo punto. Ah, beh, sì, già, vedi, l'automatismo della nuova radio. Salutiamo ovviamente gli ascoltatori, vi lasciamo con questo splendido flusso di Sanò meets Narsuitund, The Iron Soul of Nothing, e ovviamente 451 frammenti sonori ritornerà domenica prossima. Saremo puntuali anche perché abbiamo voglia di recuperare il tempo perduto, un mese e mezzo di assenza è veramente pesante, e dunque cercheremo di alleggerirci, non è promessa. E ovviamente domenica prossima sempre alle 23:35 circa sulle frequenze di Radio Città del Capo. Ricordatevi di fare un giro su internet sul nostro no blog, che è sempre 451.noblogs.org, e ovviamente vi concediamo una buona notte. Una buona notte concessa da Max Macchia ed Eliseo Scarpa. Ciao ciao. Ciao.